Vi ricordo che i 15 kg corrispondono alle tre parti di farina. Se ragionate su questa informazione, potete capire facilmente a quanto corrisponde una parte e poi calcolare le due parti d'acqua richieste dalla ricetta.